Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, in una puntata in cui appena arriverà notizia sul voto della Giunta delle Immunità del Senato, come sapete dai nostri GR24 è stata convocata per le 17 per votare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Daremo la breaking news nel corso di questo programma. La maggioranza ha disertato il voto in giunta, ma al di là di, diciamo, notizie di cronaca, oggi ci occuperemo di alcuni dati diffusi. In primis, apre Davos ufficialmente domani con vari temi. Il tema più grosso quest'anno è nella 4 giorni che terminerà il 24 di gennaio, è la sostenibilità come elemento di carattere anche economico, quindi il cambiamento climatico come una delle priorità dei leader riuniti, ma anche il rallentamento economico globale, la crisi della globalizzazione e le tensioni geopolitiche. Sarà presente quest'anno Donald Trump, che era assente invece l'anno scorso. Poi arriverà il numero uno della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, che illustrerà, immagino, di nuovo il suo Green Deal. Tra i leader europei vi sarà anche la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Dovrebbe essere presente, visto che il tema centrale è appunto la sostenibilità, anche Greta Thunberg. Ne parleremo perché questo, nonostante, diciamo, tutte le analisi fatte in queste settimane, va a Davos di quest'anno, va a collocarsi con alcuni dati diffusi oggi. Per esempio, Davos cita l'Italia come non essere un paese per giovani né per lavoratori, critica gli oltre 2 milioni di NEET, cioè di ragazzi che non studiano né lavorano, non si formano né lavoro, e questo nel rapporto sulla mobilità sociale. Ossia il fatto che quasi il 20% dei giovani compresi tra i 15 e i 24 anni siano considerati inattivi, ripeto, che non lavorano né studiano. Però emette l'Italia al 56° posto su 82 posizioni nella classifica. La formazione continua va male in Italia, e per quello che riguarda anche la formazione in generale il dato non è esaltante. Tant'è, questo rapporto si unisce, fa il paio con quanto diffuso sabato da Eurostat sulla la qualifica dei lavoratori italiani. Dice: i lavoratori italiani sono tra i peggiori in Europa per livello di istruzione. Solo il 23,4% degli occupati dichiarava di avere la laurea, dato peggiore dopo la Romania, a fronte del 36,8% dell'Unione Europea, e addirittura picchi del 47% nel Regno Unito, del 43% in Francia, del 30% in Germania. Dato particolarmente basso in Italia per i maschi: solo il 18% risulta laureato, 14 punti in meno contro i 32 punti percentuali di media dell'Unione Europea. Se si guarda invece chi ha al massimo come titolo di studio la terza media, la quota italiana è tra le più alte nell'Unione Europea, con il 30%, quasi il doppio della media europea. Migliora la situazione sulle donne con laurea, che sono il 30% delle occupate, a fronte del 40% della media europea. Ora, ne parleremo, cercheremo di tenere assieme i due dati. Va detta una cosa: quando fu riformato il percorso universitario, visto che il rapporto di Eurostat si concentra molto sulla parte di formazione universitaria, e fu introdotta la cosiddetta laurea breve, cioè i 3 anni più 2 per chi li volesse fare, l'obiettivo era evitare quella che si chiama dispersione scolastica, cioè molti con i vecchi corsi di laurea arrivavano a fare 10, 15 o più esami senza poi arrivare al conseguimento del titolo di studio finale. E quindi l'ipotesi era riduciamo di un anno in modo da intercettare chi comunque aveva avuto una formazione e diamo una laurea e un titolo di studio anche a queste persone, perché risultava molto squilibrato già allora il rapporto con i titoli di studio presenti negli altri paesi europei, e si diceva attenzione, però lì hanno corsi di laurea post scuola superiore più brevi e quindi in 3 anni ottengono quello che da noi ce ne metti 4-5 vista la tesi. Ora, da quello che noi vediamo purtroppo, il risultato non è stato di intercettare chi invece mollava il corso, diciamo, di studio universitario al terzo, al quarto anno, è stato di far abbassare di uno scalino tutto il corso di studio, cioè non ci sono incrementi nella presenza di laureati significativi. Chi prima stava all'università per 4-5 anni adesso sta per 3-4 anni, ma senza che questo abbia portato a, diciamo, all'obiettivo iniziale, se ben ricordo quello che era l'obiettivo del legislatore. Qui parliamo di formazione post scuola superiore, sapete che in questo programma invece ci occupiamo anche molto della formazione nella scuola superiore, studi tecnici e non solo. È chiaro che il dato di Davos, i 2 milioni di NEET e la bassa qualifica dei titoli di studio dei nostri lavoratori sono due cose che si tengono abbastanza, ne parleremo in apertura. Per quello che riguarda invece altri temi, oggi torna l'appuntamento come ogni lunedì con Dietro la Notizia con Alessandro Praterotti, e parleremo degli effetti dell'accordo fra Stati Uniti e Cina sui dazi, con la cosiddetta fase 1 dell'accordo commerciale e i rischi anche per l'Europa. Ultima parte, appuntamento del programma, riguarderà invece il rapporto del Fondo Monetario Internazionale, che oggi ha pubblicato l'aggiornamento di quello che si chiama World Economic Outlook, cioè le prospettive e la revisione sulle prospettive di crescita. Ha tagliato complessivamente tutte le stime sul 2020. Il PIL mondiale dopo il più 2,9% del 2019 dovrebbe crescere del 3,3% e il 3,4% l'anno prossimo, una leggera limatura. La politica monetaria, e quindi l'abbassamento e il mantenimento dei tassi di interesse a zero, continuerà a fare sentire i suoi effetti, che vuol dire sia tassi a zero praticamente che quantitative easing. I suoi effetti positivi sull'economia globale, fa notare il Fondo Monetario, che senza questo atteggiamento delle banche centrali mancherebbe uno 0,5% in più di crescita economica. L'area euro farà quest'anno l'1,3% di crescita, gli Stati Uniti il 2%. Per quello che riguarda i singoli paesi, la Germania quest'anno secondo il Fondo Monetario farà più 1,1, la Francia più 1,3. L'Italia leggermente in rialzo, però 0,5% e 0,7% l'anno prossimo, tant'è che lo stesso Fondo Monetario dice la crescita dell'Italia, pur essendo stata rivista leggermente in rialzo, resta molto molto modesta. Rivista a ribasso le previsioni per la Spagna all'1,6%, e quindi senza essere dei grandi economisti, Spagna, Francia e Germania cresceranno più del doppio rispetto a noi per quello che riguarda quest'anno. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Ne hanno già trattato i nostri GR24, anche del rapporto che come sempre precede, come ogni anno precede l'inizio di Davos, del World Economic Forum, lo fa l'ONG Oxfam, è il rapporto sulle disuguaglianze, sui paperoni cosiddetti, però attenzione che lì bisogna guardare bene il dato, lo dico insomma per... perché nel passato Oxfam fu criticata per aver confuso patrimoni con reddito prodotto. Cosa voglio dire? Voglio dire che un conto è guardare, e lo facciamo spesso, quello che per esempio è la retribuzione dei top manager, molte volte non giustificata quanto a multipli rispetto al lavoratore normale, o le mega buonuscite che prendono, per l'ultimo caso che mi viene in mente è l'ex numero uno della Boeing, che nonostante il disastro sul 737 Max ha preso una buonuscita milionaria, 62 milioni di euro. E qui parliamo di reddito prodotto. Se tu sommi il reddito e patrimonio, è chiaro che i paesi che sono più ricchi da decenni e che hanno accumulato tramite le famiglie patrimoni immobiliari, beh, la sproporzione diventa molto alta. La cosa interessante sarebbe vedere però come sono cresciuti i redditi prodotti tra i vari paesi. Voglio dire, magari potete scoprire che un paese emergente ha visto una crescita molto forte dei redditi, pur avendo ancora i suoi abitanti dei patrimoni bassi, perché hanno iniziato, diciamo, ad affacciarsi alla ricchezza più tardi. Potete scoprire che l'Italia ha dei patrimoni molto alti, noi come risparmi sapete che siamo il secondo paese al mondo, ma magari la progressione dei redditi è rimasta ferma. Voglio dire, non basta mettere assieme i patrimoni e senza individuare qual è la dinamica poi di cosa costruisce nel corso degli anni, dei decenni, un patrimonio, che sono i redditi prodotti. Comunque, ne parleremo in apertura. Per quello che riguarda le altre notizie, partiamo dai mercati: 0,5% percentuale di calo Milano, Parigi 0,5% anch'essa, Francoforte più 0,13%, Londra meno 0,40%, Dow Jones più 0,20%, euro su dollaro quota 1,10%, tra i titoli bene Pirelli più 1,60%, Poste più 1,20%, Prismian più 1% come Atlantia, Steam Microelectronics 0,5%, Saipem, fronte opposto Moncler meno 2,90%, Snam meno 2,20%, Unicredit meno 1,70%, UBI meno 1,5% come Diasorin, Banco BPM meno 1,30% come Enel, Amplifon meno 1,20%. Lo spread è poco mosso a 158 punti, il rendimento è all'1,37%. Oggi l'INPS, quindi Tridico, ma insomma, ha diffuso nuovi dati sul reddito di cittadinanza. Sono 1.100.000 le domande accolte, quindi che riguardano 1.100.000 famiglie. 56.000 nel frattempo sono decadute, quindi sono 916.000 famiglie dove c'è una persona con un reddito di cittadinanza, per 2.400.000 persone coinvolte. Le pensioni di cittadinanza sono 126.000 con 143.000 persone coinvolte, e quindi complessivamente tra pensioni e reddito sono 1.041.000 famiglie. La maggior parte nel sud e nelle isole, oltre il 61% dei percettori, cioè 6 su 10 risiedono nel sud e nelle isole, e nel mezzogiorno sono oltre 600.000 le famiglie con questo sussidio, il 24% poi al nord e il 15% al sud. Per quello che riguarda il reddito, è erogato nel 90% dei casi a un italiano, solo 6% a extracomunitari, un altro 3% riguarda cittadini europei. La Guardia di Finanza di Brescia ha smantellato una rete di 250 lavoratori in nero impiegati nel settore della ristorazione e dell'organizzazione di eventi. Alcuni percepivano anche il reddito di cittadinanza. L'operazione si chiama Master Black e vari dettagli sono stati forniti. Plaude all'operazione la FIPE, l'organizzazione che raggruppa i pubblici esercizi, perché dice in questo modo si contrasta la concorrenza. La concorrenza sleale, sostanzialmente, visto che erano tutti lavoratori in nero. E invece sta facendo molto discutere, cercheremo di capire anche le motivazioni, la soluzione del vigile in mutande. Ce ne siamo occupati anche nella nostra poco invidiabile classifica più volte, ricorderete l'inchiesta di Sanremo, l'immagine di quello che timbrava il cartellino in mutande e tornava a casa all'interno del comune di Sanremo. È stato assolto con rito abbreviato. Lo stesso procedimento si è chiuso con 10 assoluzioni, 16 rinvii a giudizio e altrettanti patteggiamenti. Stiamo cercando di capire anche i motivi dell'assoluzione, perché se il reato non sussiste, si possono aprire nuove strade, adesso con massimo rispetto per i giudici. Se uno può andare come vigile urbano in mutande a timbrare un cartellino e poi tornarsene a casa e questo non costituisce nessun tipo di violazione della norma, cerchiamo di capire perché si possono aprire nuove strade, vigilesse in bikini, impiegati in show, infradito, non lo so, no, stiamo cercando di capire. Sì, perché Sanremo è Sanremo, dice giustamente un ascoltatore. Ultima notizia, Roma e Milano, e non è una bella classifica, sono tra le 10 città al mondo, nella top 10, con più ore perse per ogni cittadino nel traffico. La capitale è addirittura al secondo posto con 254 ore, c'è solo Bogotà che fa peggio di Roma, e Milano comunque è settima con 226 ore. Terzo posto per Dublino, davanti a Parigi e Londra. Milano si colloca dopo, per fortuna, Parigi, Londra e Dublino, e anche la russa Rostov-on-Don. Dunque, non lo so, adesso il rapporto è fatto da Global Card Scorecard in Rix, però sulla congestione urbana in 200 città di 38 paesi. Faccio notare che a Milano, così come a Roma, mi sembrano leggermente scomparsi i vigili urbani. Se parliamo di traffico, di ore perse nel traffico, avrei una banalissima proposta, poi andiamo sulle cose più serie. Insomma, andate a vedere quanta parte del ritardo nel traffico nella città è dovuta a macchine parcheggiate in doppia fila. Lo so, è banalissima, lo so, non è nulla di eccitante, ma ho sentito parlare in questi anni di prima macchine o mezzi dei vigili che sarebbero passate con la telecamera a fare le foto alle auto in doppia fila, addirittura i droni. Fra un po' arriveranno i Transformer, ma intanto tutti parcheggiano in doppia fila senza che vi sia uno straccio di pattuglia. In giro, lo dico perché la macchina modestamente la uso anch'io a Milano e uso anche i mezzi a Roma, diciamo, ci fosse la stessa severità nei parcheggi in doppia fila, che di fatto riducono una carreggiata al traffico in città grandi, quanta c'è sulla sosta, ecco, forse avremmo un traffico a scorrimento veloce in tutte le nostre in tutte le nostre città. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dalla doppia fila a cambiamento climatico e Davos, il volo è veramente pindarico, ma noi lo affrontiamo. Adesso ho scatenato i suggerimenti: meno semafori, più rotonde. Per carità, a parte che mi sembra che non manchino le rotonde, sì, ho capito, ma se poi qualcuno ti parcheggia in doppia fila, puoi mettere tutte le rotonde che vuoi, la strada invece che due corsie diventa da una su. E non sto parlando solo del periodo di Natale, in cui in tutte le città italiane sembra che vi sia una sospensione della legge e di quelli che sono gli obblighi sulla circolazione, parlo in generale. Ripeto, non li incontrerò io vigili sulla doppia fila, ne vedo pochissimi. Vedo molti ausiliari del traffico mettere le multe perché ti è scaduto il tassametro, che per carità, però se parliamo dei danni, diciamo anche economici, forse tra un tassametro scaduto e uno che mette la macchina in doppia fila rallentando il traffico, io non avrei dubbi. Comunque, dunque, allora, dicono i giudici su Sanremo che lui apriva alle 5.30 del mattino i portoni del mercato ortofrutticolo di Sanremo e si alzava in mutande e timbrava. Vabbè, adesso adesso cerchiamo di capire esattamente le motivazioni, visto che tutti sono interessati alla sentenza, alla decisione di Sanremo. E allora, intanto c'è stata una seduta molto tesa, mi avete rovinato la vita, ha gridato una donna, uno degli avvocati ha detto una decisione corretta, ci mancherebbe, un altro avvocato ha detto è il momento di spegnere i riflettori e lasciare che questa vicenda torni a essere come tutti gli altri processi, il vaglio di questi filmati ha detto che erano innocenti. Il motivo appunto è questo, che Muraglia, Alberto Muraglia, è stato assolto dal GUP Paolo Luppi perché il fatto non sussiste dall'accusa di truffa ai danni dello Stato. L'avvocato aveva spiegato che Muraglia, nominato custode del mercato ortofrutticolo, si svegliava alle 5.30 per aprire i cancelli, prendeva in servizio alle 6, un compito che svolgeva in cambio dell'alloggio a titolo gratuito in uno stabile del mercato. Dopo aver aperto i cancelli, Muraglia guardava che non vi fossero auto parcheggiate male che potessero impedire l'installazione dei banchi, quindi timbrava sempre in abiti borghesi. Adesso, che le mutande siano un abito borghese! E rientrava in alloggio per indossare la divisa. È come avviene per tutti gli agenti che devono prendere servizio, che entrano, timbrano in borghese e poi si cambiano. Non so, non esiste più il pubblico decoro, mi rendo conto. Vabbè, ma prendiamo atto che uno, se deve aprire i cancelli alle 5.30, non riesce ad avere il tempo neanche di mettersi un paio di pantaloni. Io non oso pensare cosa dovremmo dire qua dentro col turno che inizia alle 5.30, che uno venga in bikini, in lingerie, in mutande, in pigiama, no, intanto, ma io, vabbè, buoni oggi. I criteri degli abiti borghesi li stabilisce Tarzan. Beh sì, sembra un po' così, mi scrive un ascoltatore a giudicare. Allora, Davos, dicevo, non un grande sforzo di originalità per quello che viene considerato l'appuntamento più importante dei numeri uno di moltissime multinazionali, grandi gruppi, capi di Stato, capi di governo. Dicevo, vi sarà Trump, vi sarà Angela Merkel, Giuseppe Conte, Christine Lagarde, Ursula von der Leyen e probabilmente anche Greta Thunberg, perché nel 50° anniversario del World Economic Forum saranno in tutto 53 i capi di Stato che arriveranno nella località svizzera, 600 conferenzieri. Il titolo per quest'anno è Stakeholder per un mondo coeso e sostenibile, che tradotto vuol dire che il cambiamento climatico viene visto come una delle priorità anche di carattere economico. Poi si parlerà di rallentamento economico globale, crisi della globalizzazione e delle tensioni politiche. Allora, Stefano Carreri in collegamento con noi a Davos, buonasera. Sì, buonasera a tutti. E poi ringrazio invece anche il professor Enrico Giovannini, perché con lui vorrei parlare dei dati diffusi oggi da Davos sui ragazzi nativi in Italia e anche di quelli di Eurostat nel fine settimana, portavoce di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Buonasera Giovannini. Buonasera. Stefano, prima del meteo, poi ti faccio... Ma dimmi una cosa, Greta Thunberg forse verrà, se ho ben capito, a Davos? Sì, è previsto che il suo giorno sarà domani. Domani dovrebbe prendere la scena lei e, diciamo, le elite industriali, finanziarie e politiche sono qui presenti, dovrebbero farsi volentieri schiaffeggiare dal suo discorso, in cui sicuramente dirà che non stanno assolutamente facendo abbastanza per adottare... No, ma la domanda era un'altra, cioè, se ben ricordo, Davos la gente non arriva esattamente con l'autobus, ci sono elicotteri, aerei privati. No, è interessante, perché se c'è un posto in cui vai, adesso lo dico, non me ne frega nulla della Greta Thunberg, a inquinare con l'uso dei jet, automobili, cortei di autisti, le montagne svizzere, proprio Davos, no? Ma sicuramente il numero di jet privati che sono in arrivo qua contribuiranno a inquinare l'atmosfera, però gli organizzatori del forum dicono che per quanto riguarda l'organizzazione a Davos così sarà carbon neutral, cioè hanno fatto in modo che diciamo non ci saranno, per quanto riguarda la struttura organizzativa, e escluso ovviamente i voli intercontinentali appunto i jet privati, gli elicotteri, il corteo di auto, a parte quello, diciamo, a me ricordo un po' la mentina di Monty Python, però chi vuole capire capisce. Dopo il meteo invece, Stefano, i temi, perché adesso al di là della battuta mi sembra che almeno un dato possa essere ritenuto ormai consolidato: la variabile, diciamo, di sostenibilità ambientale è una variabile a tutti gli effetti di carattere economico, cioè non è solo una variabile etica, per quanto giustissima anche come variabile etica, e sul futuro dei nostri figli, delle prossime generazioni, viene ormai dal mondo bancario, dal mondo degli analisti, inserita abitualmente come variabile economica. Ti chiederò dopo il meteo che cosa potrà uscire da Davos, ma anche non solo sulla parte ambientale, anche sulle tensioni geopolitiche e su quella che loro chiamano crisi della globalizzazione. Ricordo che Davos per molti anni è stato l'emblema stesso della globalizzazione, per alcuni in maniera positiva, per altri in maniera totalmente negativa. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Ho capito, adesso chiudiamola col vigile in mutande, che non c'era reato, qualcuno mi dà del forcaiolo, se per voi va tutto bene, lui abitava lì, basterebbe un paio di jeans, è difficile dire sta cosa, dopodiché nessuno vuole mettere alla forca il vigile in mutande, a me interessa che vengano puniti gli assenteisti. Ritengo quantomeno di dubbio gusto timbrare il cartellino in mutande, dopodiché faccia quello che vuole. A questo punto abbiamo altri problemi. Meteo. Focus Economia. Allora, Stefano Carrer, la variabile della sostenibilità ambientale, ma anche una globalizzazione che era appunto vista in maniera sempre positiva da Davos, che va in crisi come modello, prego. Sì, diciamo, va in crisi, però diciamo questa volta il 50° forum economico di Davos, mai come questa volta il tema della sostenibilità, il tema di come affrontare i cambiamenti climatici è al centro di tutto il dibattito. E quindi diciamo è giusto fare la tara a dichiarazioni di intenti e promesse così, però sembra che insomma sia dal mondo della finanza, quindi non solo dal mondo industriale ma dal mondo della finanza, ci sono dei segnali secondo cui sicuramente è crescente la consapevolezza che il fattore climatico sta cambiando l'economia, cambierà anche gli equilibri della finanza. Mi ha colpito oggi che la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia, in anticipazione del forum che si apre ufficialmente domani, ha per la prima volta detto che il settore petrolifero sta facendo troppo poco per la transizione energetica e ha chiamato in causa le grandi società petrolifere statali. E quindi ci sono dei segnali, così come sono arrivati dalla finanza. Ricordiamo, il capo di Banca America ha firmato una lettera con l'organizzatore del forum, Klaus Schwab, e con il capo di una grande società petrolchimica per chiedere a tutti i dirigenti di società che sono qui presenti di introdurre precisi piani per la riduzione dell'impatto delle loro attività nell'atmosfera. Certo, voglio dire, gli ambientalisti saranno delusi perché la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia, pur facendo un passo avanti inedito oggi con questi statement, ha detto è assolutamente impossibile quello che chiedono gli ambientalisti, cioè di fermare immediatamente gli investimenti nei campi petroliferi esistenti. Perché questo, ha detto, porterebbe a un calo della produzione annuale dell'8% e quindi a una crisi energetica. Ma ricordiamo che domani Greta chiederà non solo lo stop agli investimenti negli impianti esistenti, ma addirittura il disinvestimento da tutto il settore dei combustibili fossili, e questo diciamo ovviamente sconfina nell'utopia. Allora sì, tra utopia e tutto, qualcuno mi scrive ma allora a sto punto se volevano essere coerenti bastava fare delle videoconferenze così risparmiavano tutte le emissioni. Sì, allora per carità, io dico una cosa, siccome Davos funziona per i vari esponenti dei numeri 1, numeri 2 delle grandi società al mondo, saranno appunto 600 conferenzieri, per ascoltare, per incontrarsi, per fare bitu. Non ho mai visto uscire da Davos soluzioni poi diciamo eclatanti. Però vorrei chiedere una cosa a Enrico Giovannini, che oggi ne scrive sul Sole 24 Ore, parlando di un nuovo, ieri ne ha scritto, mi scusi, di un nuovo cigno verde. Cigno nero è, sappiamo tutti, quella profezia in cui tutto potrebbe andare storto. Il cigno verde, secondo lei, Giovannini, è il nuovo elemento, la nuova variabile in gioco, perché i cambiamenti climatici sono fonte di instabilità finanziaria e dei prezzi. Però Giovannini, molti mi scrivono attenzione che qua si inizia a confondere sostenibilità vera e propria con quello che gli inglesi e gli americani chiamano greenwashing, cioè io potrei tradurlo con una mano de verde, diamo una mano de verde a qualunque attività e a sto punto io mi sento meglio, sembro più figo. Sostanzialmente è un'operazione di marketing. Il rischio c'è, è evidente, e molti la prendono così. Altri la prendono seriamente e, come dimostrano i dati Istat pubblicati 6 mesi fa, le grandissime imprese che in Italia hanno preso la sostenibilità, non solo ambientale, per favore, non parliamo solo di sostenibilità ambientale o di cambiamenti climatici, ma parliamo anche di sostenibilità sociale, e credo ne parleremo tra breve sul tema delle disuguaglianze, hanno il 15% di produttività in più rispetto alle altre imprese a parità di altre condizioni. 10% per le grandi imprese, 5% per le medie. Allora, questo è un fatto su cui tantissime persone ancora non hanno aperto gli occhi, mentre la finanza lo ha fatto. Lei citava il mio articolo di ieri, e la pagina 2 e 3 del Sole di ieri era dedicata a questi temi, e poi si parlava nelle pagine successive delle compagnie aeree che stanno cambiando modello di business, non solo eliminando la plastica, riducendo i consumi, eccetera, ma cambiando anche potenzialmente gli aerei, che il settore della moda, il settore della Made in Italy importante come l'abbigliamento, ma anche come il design e quindi i mobili, stanno andando in questa direzione. Io concludevo l'articolo dicendo che, visto che il mondo non applica il Vangelo, i primi saranno i primi e gli ultimi saranno gli ultimi. Le imprese, i territori, i paesi che hanno deciso di prendere questo come spunto per aumentare produttività, crescita, occupazione, eccetera, lo faranno. Gli altri, scettici, dubbiosi, magari anche un po' cinici, pensano di poter andare avanti e il mercato stesso li punirà. Allora, adesso al traffico, poi restate con me sia Giovannini che Carré, perché con lei vorrei capire altri due aspetti. Lei diceva giustamente la sostenibilità è un elemento di competitività, non è solo un elemento di carattere etico. E su questo io, Giovannini, noi vediamo che almeno dal punto di vista dell'iniziativa privata l'Italia è messa molto bene, cioè noi stiamo sviluppando un settore, chiamiamolo green, verde, per farmi capire, ma insomma, in cui applichiamo anche tecnologia, brevetti e quant'altro, cioè abbiamo dei dati per esempio sulla raccolta dei rifiuti, la differenziata, che sono assolutamente all'apice in Europa. E quindi vorrei capire il suo giudizio sul sistema produttivo del paese che deve muoversi in questa direzione. Poi sulla formazione con Carrara invece dopo ci traghettiamo verso l'appuntamento con Plateroti, perché vorrei capire anche, al di là della sostenibilità ambientale, gli altri rischi che si vedono a Davos, in primis appunto tensioni di carattere commerciale e globalizzazione in discussione. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora Giovannini, intanto un giudizio sullo stato dell'arte del nostro mondo produttivo e la transizione verso il verde. Parlo di piccole, medie, grandi imprese, parlo per esempio di tutto il mondo del packaging e quindi e dell'imballaggio italiano, ma anche insomma di quello che stiamo facendo, con dati, devo dire, una volta tanto, visto che adesso commenteremo quelli più negativi sulla formazione dei nostri lavoratori, che vedono un'attenzione, una sensibilità abbastanza alta in questo paese per la sostenibilità, almeno quella ambientale. Prego. Solo in parte, perché non c'è dubbio che abbiamo grandi eccellenze, ma il sistema nel suo complesso non è all'avanguardia. Mm-hmm. Mi spiego. Secondo sempre i dati Istat, il 90% delle imprese fa raccolta differenziata, e vorrei vedere che non facessero, ma solo il 20% delle imprese, con oltre 50 addetti, usa materie prime seconde, cioè il riuso dei materiali. L'utilizzo. Economia circolare. Dove, diciamo. Esattamente, ma è economia circolare vera, quella veramente dove si risparmia. E questa distanza tra il 90% e il 20% le dà un'idea del gap e anche dell'opportunità. Le faccio un altro esempio. I decreti di fine vita, cosiddetti, dei prodotti, end of waste. L'Italia ha potenzialmente dei nuovi brevetti, per esempio per i pannolini, che infatti hanno consentito a un'impresa che è beneficiata da questo decreto, che spiega quando un prodotto smette di essere un rifiuto, per cui se io lo riuso vado in galera perché il traffico di rifiuti... Sì, che è un problema che hanno penale. Anche molte municipalizzate, lo dico perché ne abbiamo parlato anche a Ecomondo a Rimini, aspettano decreti, una legge più chiara sull'end of waste, su cosa fare, diciamo, dei beni che loro potrebbero riutilizzare. Adesso la dico male anche in questo caso, scarti, però se lo fanno in assenza di legge vengono condannati e multati, e quindi chiedono di sapere che cosa fare per finalmente con il decreto clima approvato recentemente questa operazione di autorizzazione è stata data alle regioni. Speriamo che ci sia un coordinamento forte, perché altrimenti una regione si muove in un modo e l'altra in un altro. Ma le faccio un altro esempio, che è il tema del riuso dell'acqua, delle acque reflue, eccetera. Solo il 20% delle imprese con oltre 50 addetti riusa l'acqua depurandola. Preferiscono magari darla appunto a chi ripulisce l'acqua, ma non all'interno del processo produttivo. Lei capisce che in questo modo stiamo discutendo della integrazione verticale o orizzontale, come per molte altre innovazioni. Infine, la finanza, ci sono dati molto positivi, ma lo stesso governatore Visco al nostro evento di maggio di apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile ha detto che il mercato non sta servendo il grande cambiamento che sta avvenendo nei risparmiatori a favore di questi investimenti. E questa è un'opportunità che diventerà ancora più importante quando quest'anno l'Unione Europea definirà la cosiddetta tassonomia degli investimenti verdi, eccetera. Ma se non siamo pronti, noi verremo penalizzati da tutto questo. Mi faccio concludere con un riferimento che ha a che fare con la politica errata. Nel 2016 il governo dell'epoca, dovendo attuare in Italia la direttiva europea sulla rendicontazione ambientale, sociale, eccetera, la limitò a imprese grandissime dimensioni, circa 200 imprese su 4 milioni. Adesso anche Confindustria e altri si sono resi conto che è stato un errore. Perché? Perché la finanza guarda imprese che rendicontano in questo modo. In queste ore c'è una discussione, un emendamento in Parlamento che allarga appunto a tutte le imprese con 500 addetti e con 3 anni di transizione a quelle con più di 250 addetti. Certo, se l'avessimo fatto 3 anni fa, oggi saremmo all'avanguardia. Senta, Giovanni, non ho tempo per commentare il dato di Eurostat, che era di domenica, e anche di Davos sui l'Italia, dove ci sono tantissimi inattivi, 19% dei giovani tra i 15 e i 24 anni non studiano né lavorano, e siamo al 56esimo posto su 82, mentre Eurostat ha detto che siamo i penultimi in Europa quanto a titolo di studio, livello di istruzione dei nostri lavoratori, dove la laurea, per esempio, è il dato peggiore di noi, ce l'ha solo la Romania, solo il 23,5% degli occupati ha una laurea contro il 37% dell'Unione Europea, il 47% del Regno Unito, il 43% della Francia e il 30% della Germania, particolarmente basso per i maschi con appena 18%. Mi dia solo un commento, poi un'altra volta lo affronteremo. È sbagliato dire che la laurea triennale ha fallito il suo obiettivo, che era quello di evitare la dispersione di chi faceva 10-15 esami e poi mollava il colpo, invece ha abbassato di un gradino l'intero percorso formativo? In parte è sbagliato, nel senso che non ha prodotto quel balzo che ci si aspettava, ma in parte è stato dovuto al fatto che molte università, di fronte ai tagli della spesa pubblica, hanno introdotto i numeri chiusi. In più sappiamo che l'aiuto allo studio dei meritevoli è molto limitato, quindi io spero che la nuova ministra dell'educazione, il ministro nuovo dell'università e della ricerca ci presentino un piano per portare la quota di laureati almeno a livelli analoghi a quelli degli altri paesi, ma con questo concludo, le imprese hanno una forte responsabilità, perché spesso prendono dei laureati e li pagano come dei diplomati, creando un disincentivo per i ragazzi per andare all'università. Allora, grazie anche a Enrico Giovannini, ex presidente dell'ISTAT, ex ministro del lavoro e attualmente portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Stefano Carrer, visto che ci ha raggiunto negli studi Alessandro Praterotti per l'appuntamento del lunedì, l'altro tema in discussione, se ho ben capito, è, non dico la fine della globalizzazione, ma insomma, certo che i dazi e globalizzazione sono due termini abbastanza antitetici. Ma questo sì, però ecco, vi voglio segnalare che oggi il Fondo Monetario Internazionale qui a Davos ha emesso il suo nuovo outlook aggiornando le previsioni sull'economia globale, e nonostante la schiarita nel contenzioso commerciale tra Stati Uniti e Cina, nonostante l'allentamento dei timori su una Brexit disordinata, ha ancora leggermente rivisto al ribasso le proiezioni sulla crescita globale per quest'anno, cioè al 3,3% dopo il 2,9% del 2019, che comunque rappresenta, diciamo, il punto più basso dalla crisi finanziaria. E tra l'altro volevo anche dirvi che sulla scia del buonismo che tu dici che sta imperando qui a Davos, per la prima volta oggi hanno emesso un report sulla mobilità sociale, da cui risulta che l'Italia purtroppo è indietro rispetto a tutti i paesi industrializzati, purtroppo l'ascensore sociale è bloccato in Italia, ma qui si riconosce che una maggiore mobilità sociale favorirebbe il PIL, addirittura dice non devi cominciare a decennale. Per quanto riguarda il fronte commerciale, certo arriva Trump che fa un po' la contronarrativa rispetto alla narrativa imperante qui a Davos, però la cosa più importante al di là delle grandi discussioni sarà, lui arriva qui con tutto il suo team economico e incontrerà la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, mentre Leitner, il suo rappresentante commerciale, incontrerà Bruno Le Maire, il ministro francese che ha introdotto la web tax, e quindi il rischio è quello di un cioè l'incognita Trump sull'Europa, cioè se ma l'incognita Trump non è da adesso che la vediamo. Intanto ti riavremo in collegamento, Stefano. Grazie a Stefano Caia da Davos. L'incognita Trump, o meglio le conseguenze dell'accordo, della prima fase d'accordo tra Cina e Stati Uniti, le conseguenze per l'Europa, restiamo quindi in tema, sono invece il tema di oggi, scusate gioco di parole, nell'appuntamento con Dietro la Notizia. Cinema, voli aerei, giochi, libri o web, una vita di piccole grandi cose, e dietro sempre lei, l'economia. Sono Anna Migliorati e vi accompagnerò alla scoperta dell'economia delle piccole cose, perché conoscere aiuta a scegliere. Vi aspetto ogni sabato dopo il GR delle 7 su Radio 24. Bello avere il socio Conad a casa mia. Posso offrirle un caffè? Grazie. O anche biscotti, latte, pasta. Ha approfittato di Bassi e Fissi e ha fatto bene. Con Bassi e Fissi rendiamo ancora più convenienti quei prodotti che nelle case di tutte le famiglie non devono mancare mai, perché nessun uomo è un'isola. E nemmeno questo supermercato lo è. Conad, persone oltre le cose. Anno nuovo, Colombo. Tempo di buoni propositi, eh? Sì, buttar giù la pancia, per esempio. Ma se riuscissi a trovare una soluzione gestionale innovativa per digitalizzare il mio business. Provi Fluentis ERP, è gratis per 30 giorni. E se scegli un'installazione in cloud, i primi 12 mesi sono scontati del 50%. Ah, però, interessante, Ghirardi. Vada su fluentis.com, scarichi l'app e potrai iniziare da subito la sua Fluentis Experience. Fluentis, la F che funziona. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. I miei risparmi, interessi praticamente zero, meno i costi, fa più o meno meno. I conti meno. Correnti rendono sempre meno. Banca Mediolanum invece ti dà di più. Sono Massimo Doris. Mediolanum oggi ti offre il 2% annuo sulle nuove somme vincolate a 6 mesi, più un family banker dedicato per ogni tua esigenza. Mediolanum ti dà di più, da sempre. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Pubblicità per i correntisti, tasso lordo sui vincoli in promo fino al 31 marzo. Documento promozioni e fogli informativi su bancamediolanum.it. Colesterolo? Prova Colesterol Act. Colesterol Act contribuisce a mantenere i livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterol Act, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio. Con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24. La passione si sente anche in podcast. Nate queste canzoni. Torna Come nasce una canzone. Questa volta andiamo alla scoperta dei grandi classici della musica italiana, con gli autori, i compositori, gli arrangiatori, i produttori, insieme a me, Marta Cagnola, ogni mercoledì una nuova puntata, in esclusiva, in podcast, sul sito e sulla app di Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e restiamo sul tema, diciamo sui temi che verranno affrontati, di cui abbiamo parlato, da un lato a Davos, ma non solo, da un lato la parte di sostenibilità, dall'altro però una globalizzazione che lo stesso, diciamo, capitale, secondo molti, dell'ideologia della globalizzazione, quindi il forum di Davos, riconosce essere in crisi anche per le tensioni geopolitiche. Come ricordava prima Stefano Carrera in collegamento da Davos, arriverà Trump, e Trump è, non dico l'anti-Davos perché insomma sarebbe eccessivo, ma sicuramente è quello che ha azzoppato in parte la globalizzazione, perlomeno per quello che riguarda i rapporti commerciali. Ora, il tutto avverrà però a pochi giorni dalla cosiddetta firma della fase 1 dell'accordo con la Cina. Di questo ci occupiamo oggi nell'appuntamento, come ogni lunedì, con Alessandro Paterotti, perché tutti ci siamo concentrati nel guardare che cosa sarebbe cambiato nei rapporti Cina-Stati Uniti, Stati Uniti-Cina. Però anche il commissario europeo al commercio Hogan aveva fatto notare: attenzione, non vorremmo che questo accordo poi, e la commissione l'ha scritto, finisse col penalizzare indirettamente l'Unione Europea. Dietro la notizia. Allora, Alessandro Paterotti, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera, come ogni lunedì. Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Dietro la notizia oggi è proprio dietro la notizia, perché tutti, appunto, dicevo, ci siamo concentrati su questo, sull'accordo, perché è stato l'elemento forse più forte di instabilità nel 2019 quanto a commercio mondiale. C'è il dubbio però che a pagare il conto non sia l'oste, ma sia chi non era a tavola, Alessandro. Sì, siamo andati a guardare un po' di numeri per capire esattamente non solo chi beneficia di questo accordo, ma anche chi lo paga. Beh, i risultati sono un po' sorprendenti. Partiamo da un dato punto di riferimento: l'accordo prevede 200 miliardi in più di acquisti cinesi in America. Questo non è una cifra piccola, se pensate che è 421 miliardi l'intero surplus cinese rispetto all'America, quindi è quasi la metà. Siamo circa al 25% dell'intero surplus diviso su due anni. Ma che cosa prevede questo accordo? Ecco, qui viene il bello. Questo accordo non aiuta l'economia mondiale, tiene da sostegno sicuramente a quella americana e in parte a quella cinese, ma non cambia di una virgola quelle che sono le prospettive dell'economia. E non a caso, se andiamo a guardare quello che è successo nei due mesi della guerra commerciale fra Cina e Stati Uniti, i due paesi non hanno risentito minimamente di questa guerra commerciale, la disoccupazione americana al minimo, la Cina continua a crescere. Chi invece continua a accusare l'Europa? Ma perché? Perché quell'accordo, così come è strutturato, prevede che in due anni, ovvero una parte nel 2020 e una parte nel 2021, la Cina compri più prodotti americani. Poiché andate a guardare le cifre, che cosa vediamo? Che la Cina oggi non sta comprando meno di quello che gli serve. Quindi che cosa significa di fatto? Che toglierà quelle quote di acquisti ad altri paesi. Ma dove li toglierà? Beh, qui siamo andati un po' a guardare nel dettaglio. Tenete presente che già nel 2020 la Cina acquisterà 33 miliardi in più di prodotti americani nel settore manifatturiero e industriale, 19 miliardi nel settore energetico, 13 miliardi nei servizi, 12,5 miliardi nei prodotti agricoli. Allora, se prendiamo che l'anno dopo, ovvero 2021, nel 2021 la cifra salirà a 45 miliardi di dollari per il manifatturiero, 34 per l'energia e così via. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che compreranno l'equivalente in meno prodotti dall'Europa e soprattutto dal Sud America. Ecco Alessandro, questo parte dall'assunto che la Cina stia già comprando quello che gli serve, lo dico male, certo, e che quindi non abbia bisogno di comprare di più all'estero. E la torta è uguale, semplicemente la fetta, bravissimo, dedicata agli Stati Uniti sarà più grande e si riduce la fetta europea. Quali paesi potrebbero subire le conseguenze più gravi? Perché pur con tutti i dati che abbiamo visto, Germania e Francia sono i più esposti in questo momento, soprattutto nel settore del macchinario industriale. Teniamo presente che questo riguarda anche l'Italia, perché sappiamo che nelle macchine utensili noi giochiamo un ruolo di primo piano sulla scena internazionale. Ecco, 24 miliardi di acquisti che andavano in Europa probabilmente andranno direttamente sugli Stati Uniti, perché questo prevede quell'accordo. Allora, qui devo chiedere una cosa, attenzione, perché è vero che l'Italia nei confronti della Cina non ha neanche minimamente l'esposizione che ha la Germania, e quindi su tutti i settori forti delle quattro, automotive, legno arredo, abbigliamento e alimentare. Però è vero, come tu ricordavi, che soprattutto nella meccanica la Germania è il nostro primo partner di esportazione. Esattamente. E quando diciamo che magari una componente fatta in Germania non andrà più in Cina, dentro questo macchinario spesso ci sono molte componenti fatte in Italia. Sì, proprio perché ormai l'integrazione intanto industriale nella componentistica fa sì che gli acquisti dei produttori vengano disseminati un po' in Europa, e noi facciamo delle grandi cose di tecnologia. Comunque la morale qual è in questo discorso? Uno, abbiamo perso l'occasione durante il negoziato Cina-Stati Uniti di cercare di capire che cosa stavano discutendo, siamo rimasti completamente fuori. Secondo, questo accordo arriva alla vigilia della discussione sulla digital tax con gli Stati Uniti e Trump avrà lo stesso atteggiamento che ha preso con la Cina, cioè minaccerà, se ci siamo spaventati per il prosciutto e il prosecco, prepariamoci a quello che verrà dopo. Vabbè, lui l'ha già detto il 4 dicembre, ha detto se la Francia va avanti con la digital tax che colpisce i big americani del web, verrà colpita con dazi fino al 100% su beni per 2,4 miliardi. Quindi di cosa ci dobbiamo preoccupare? Ci dobbiamo preoccupare che ci presentiamo, mentre la Cina si presenta come un unico interlocutore davanti a Trump, l'Europa si presenterà come al solito con esigenze disseminate a macchia di leopardo diversa una dall'altra e sempre con una voce molto debole. Allora questa è una cosa molto importante che ci riguarda, perché tutte le nostre prospettive di ripresa, soprattutto per l'Italia, dipendono dalle esportazioni, e quindi sappiamo quanto la capacità negoziale della Cina, dell'Europa con gli Stati Uniti sarà determinante per le nostre speranze di riavere più lavoro in Italia e più stabilità in Europa. Sì, e tra l'altro devo dire che c'era un altro elemento di forza della Cina. La Cina comunque sul piatto, anche se non l'ha mai fatto in maniera esplicita, poteva mettere e ha messo il 40% del debito americano, che in mano cinese non c'è un'equivalenza, noi non abbiamo come europei. Ma attenzione, anche questo qua è importante per la seconda parte del discorso. Allora, la fase 2, quella che tu stavi accennando prima, rientra un po' su questo qua. Perché? Perché riguarda mercato dei capitali, controllo dei capitali e riciclaggio, e qui arriviamo ai due punti fondamentali di cui non se n'è nemmeno parlato, delocalizzazione e sussidi. Cina e Stati Uniti stanno gettando le basi per un accordo sulla delocalizzazione, cosa che l'Europa non ha ancora mai fatto. Questo è fondamentale, perché dipende dal costo dei prodotti e della competitività delle imprese, e siamo rimasti giù dal treno. Sì, devo dire che sulla digital tax poi c'è un problema interno all'Europa, perché Francia, Germania e Italia sono d'accordo che le società non possono pagare, abbiamo parlato decine di volte in questo programma, devono pagare dove i ricavi li fanno, i fatturati li fanno, e non dove, con la storia della casa madre e della partita di giro, dove più gli conviene. Il problema è che è l'Europa che si fa concorrenza internamente, perché l'Irlanda, il Lussemburgo e l'Olanda non saranno mai per questa posizione, perché perderebbero. Quindi c'è Trump da fuori che difende totalmente i suoi colossi del web, e poi c'è anche una posizione abbastanza divisa dentro l'Europa. Chiudo con una cosa, attenzione, perché la digital tax si sovrapporrà agli altri due discorsi con cui gli Stati Uniti stiamo in rotta: automobili e prodotti agricoli, su cui gli Stati Uniti sono in guerra con l'Europa. E il rischio, quindi, dico per ora solo rischio, è che chiusa la partita con la Cina, o quantomeno pacificata, sterilizzata la partita con la Cina, Trump si giri e inizia una partita più facile, tra virgolette, proprio, ahimè, con un'Europa divisa. Grazie Alessandro Platerotti, andiamo sul traffico. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Focus Economia. minuti, restiamo, oggi c'è un certo filo rouge, un certo filo rosso sul tema delle prospettive della crescita economica, non tanto della globalizzazione, perché oggi, come ricordava anche Stefano Carrère da Davos, il giorno prima dell'inizio del vertice, il Fondo Monetario ha pubblicato l'aggiornamento del World Economic Outlook, ha tagliato le stime sulla crescita mondiale di poco, cioè sarà meglio quest'anno dell'anno scorso, contro il 2,9% dell'anno scorso, quest'anno la crescita mondiale farà 3,3%, ha riconosciuto che la politica monetaria, i tassi bassi, i tassi a zero contribuiscono per lo 0,5% in più, l'Europa farà più 1,3% quest'anno, l'area euro, l'economia americana più 2%, Germania più 1,1%, Francia più 1,3%, riviste al ribasso le stime per la Spagna che farà comunque l'1,6%, l'Italia 0,5%, rivista un po' in rialzo, ma lo stesso Fondo Monetario definisce la nostra crescita molto modesta. Professor Francesco Daveri, economista, direttore del Master MBA dell'Università Bocconi di Milano, buonasera. Buonasera. Senta, mi collego a un messaggio che è arrivato al 349-238-6666, dunque... Con la Cina è stato un massacro per la Cina e mi ricollego anche all'analisi che ha appena fatto Alessandro Platerotti sul fatto che noi pagheremo il prezzo dell'accordo Stati Uniti-Cina, perché saranno 200 miliardi in 2 anni di beni che la Cina acquisterà dagli Stati Uniti e non più anche dall'Europa. Un ascoltatore mi dice, guardi che dopo quello che abbiamo sentito, Trump che adesso poserà il suo sguardo, io non ho mai detto che Trump fosse stupido, contrariamente a quello che scrive qualcuno, sull'Europa, e inizierà la partita su diciamo derrate alimentari barra agricoltura barra automotive, e una Cina che comprerà probabilmente meno prodotti europei, un ascoltatore mi ha detto, guardi che allora a questo punto è ora di finirla col mercantilismo, citando diciamo, una categoria classica dell'economia sullo sviluppo mondiale, meglio concentrarsi sui consumi interni. Che ne pensa? Ma dunque ci sono vari modi di reagire a questo, uno di questi è di dire che è chiaro che l'Europa che si presenta nel concerto mondiale, o meglio nella guerra, nella situazione di legge della giungla che Trump ha instaurato nell'economia mondiale, si presenta disunita, perde di sicuro. In ogni caso importare è una cosa che dobbiamo continuare a fare, e perché ci serve importare in un mondo in cui noi importiamo il 30% del nostro PIL, cioè non è che possiamo tirare su le barriere e metterci a rifare i treni o non so, questo è una cosa impossibile da fare. Quindi dobbiamo continuare a esportare, dobbiamo farlo facendoci rispettare dagli altri, e se non siamo in condizione di farsi rispettare dagli altri pagheremo certamente un costo molto consistente. Però a mio avviso il ragionamento dell'ascoltatore è un po' più profondo, cioè nel momento in cui Trump ha sparigliato tutte le carte del tavolo, non si sta comportando in maniera educata, cioè rispettando le regole, Organizzazione Mondiale del Commercio e quant'altro, però di fatto è arrivato a un accordo bilaterale con la Cina, ha riproposto il bilateralismo, quindi non e lì l'America vince, perché è la più grande potenza militare al mondo, è la prima economia del paese, e quindi su questo vince. Breaking news. La giunta per le autorizzazioni del Senato dà il via libera al processo a Matteo Salvini sull'ipotesi di accusa di sequestro di persona per il caso Gregoretti. La giunta ha respinto la proposta del presidente Maurizio Gasparri di negare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. Contro la proposta hanno votato i 5 senatori della Lega, a favore i 4 di Forza Italia e Alberto Balboni di Fratelli d'Italia. In caso di pareggio, il regolamento del Senato fa prevalere i no, quindi ok al processo a Salvini. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito per la breaking news. Dicevo, Daveri, ma se è ripartito il bilateralismo, se non c'è più l'Organizzazione Mondiale per il Commercio e il bilateralismo avvantaggia gli Stati Uniti e i paesi più grossi, in parte anche la Cina e la Russia, non è, nessuno vuole bloccare le esportazioni e le importazioni, ma non è il caso anche di ripensare il modello, diciamo, molto germanocentrico di quest'area euro in cui tutta la crescita, anche tedesca, arrivava dalle esportazioni e i consumi non venivano considerati perché la cosa più importante sono i conti pubblici e quindi nessuna politica per il rilancio dei consumi interni. Cioè, non rischiamo di restare gli ultimi, come gli ultimi giapponesi nella giungla, a difendere ancora un mondo di liberi scambi multilaterali che si sta sciogliendo come neve al sole? No, ma io non avevo in mente il fatto di ritornare nostalgicamente al mondo degli scambi multilaterali. Quello che mi pare che ci sia è che se c'è la legge della giungla, noi dobbiamo prepararci a combattere come nella legge della giungla. E quindi vuol dire che il più forte vince, il più forte è quello più grosso. Se si presenta da sola la Germania, da sola la Francia, da sola l'Italia a negoziare con cinesi e americani, siamo tutti con le ossa rotte, ognuno separatamente dagli altri. E quindi la cosa migliore è cercare di capire come è possibile creare una sorta di interesse europeo, che vorrà dire che bisogna lasciare giù qualche cosa sulla digital tax, piuttosto che sull'agricoltura, piuttosto che sull'automotive, a seconda delle circostanze, in modo tale da cercare di costruire un interesse europeo da contrapporre a quello cinese e a quello americano. Non vedo un'alternativa al dire a questo, sul fatto di dire rilanciamo i consumi interni facendo più deficit, perché ci sono paesi che possono farlo e sarebbe giusto che lo facessero come i tedeschi. Quindi da questo punto di vista è vero che le regole europee vanno sicuramente reinterpretate, se non riviste, ma almeno reinterpretate, perché riviste ci vuole troppo tempo per rivedere le regole europee con 27 paesi. Diventa un pasticcio, però cercare di vedere se la nuova commissione le reinterpreta in modo un po' più estensivo, in modo da rilanciare la competitività con nuovi investimenti che possono essere quelli sostenibili piuttosto che altre forme di investimenti pubblici, questa è la strada da fare, secondo me non ci sono tante alternative a questo. E quindi insomma, il dato che stavamo commentando segnala comunque una ripartenza, qui ritorno al rapporto del Fondo Monetario Internazionale, una ripartenza lenta del commercio globale. Secondo lei, Daveri, per concludere, quale sarà la primo terreno di scontro? Digital tax, come immaginava Platerotti poco fa, dopo la minaccia molto esplicita fatta a Parigi, fatta alla Francia da Trump, diciamo, vi colpiremo con 2 miliardi e 400 milioni di dazi sui vostri beni se toccherete i big americani del web, o altre partite? Beh, Trump colpirà dove l'Italia, dove l'Europa è disunita, quindi sicuramente la digital tax è un'area fertile da questo punto di vista, perché Italia e Francia la pensano in un modo, Irlanda, Olanda in un altro modo, però anche sugli aiuti all'agricoltura, in effetti sulle politiche agricole, anche qui ci sono divisioni all'interno dell'Europa, quindi come dire, purtroppo l'Europa di oggi si presta a essere letteralmente massacrata in un negoziato da Trump, a meno che non sia capace di un colpo di reni per trovare gli interessi comuni. Ecco, questa è la cosa, che i tedeschi lasciano giù qualcosa sulla disciplina fiscale certo. Noi però dovremmo probabilmente accettare di lasciare giù qualche altra cosa che è più interessante per noi, che può essere come, che ne so, il debito pubblico dentro le banche, ecco, qualche cosa di questo tipo. Cioè, bisogna fare un negoziato in cui ognuno lascia giù qualcosa, ma almeno possiamo negoziare, non dico da pari a pari, ma senza perdere troppo nei confronti dei grandi big. Anche perché se è chiaro che da quello che lei dice, l'accordo in primo luogo deve essere fatto dentro l'Europa. A chi la critica, io sono d'accordo, un conto è parlare di uscita dall'Europa, uscita dall'euro, un conto è criticare l'Europa e e l'euro. Sono d'accordo, io temo che ci sia un problema, spero veramente di sbagliarmi, un problema anche proprio culturale, cioè l'Unione Europea per come è nata nel pieno, diciamo, della globalizzazione vista solo come qualcosa di positivo, quindi scambi commerciali in aumento, multilateralismo, fine della guerra fredda e grande mercato unico. Non è nata per un mondo in cui tornava, non dico la guerra fredda, ma i rapporti di forza, come lei ricordava, tra Washington e Pechino, tra Washington e Mosca e via così. E quindi deve proprio cambiare anche testa, oltre che atteggiamento. Grazie anche a Francesco Daveri, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoli intanto l'augurio di una buona serata.